Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. For a week, generations would follow the course that we'd charted from that sofa across. I couldn't wait to get started. These United States è il nome della band che ha aperto la seconda parte di Eclettica, un estratto dal loro album d'esordio, uscito il 4 di marzo, band di Washington DC che ha intitolato il suo album d'esordio non in maniera omonima, come si fa abitualmente, ma con un titolo sufficientemente lungo, ve lo leggo, A Picture of the Three of Us at the Gate of, to the Garden of Eden. Dopo che la prima parte si era invece chiusa con la lunghissima Flock's Third Day, Collections of Colonies of Bees. E Giulio Caperdoni con voi ancora fino alle 20 per questo venerdì che è l'ultimo giorno della settimana di Eclettica. Sono 5 volumi divisi in parti da 30 minuti ciascuno, quindi due parti al giorno che poi sono disponibili anche in podcasting. L'indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com ed ora lasciamo spazio alla scena italiana, anzi alla scena elettronica genovese che è rappresentata dal volume 2 della compilation Zenatron, da cui già abbiamo estratto un brano che è contenuto anche nell'album di Q, artista, che ha scelto di farsi rappresentare dalla lettera iniziale del suo cognome. Scelta diversa però quest'oggi, sempre da Genova, due fratelli De Benedetti, uno è il Bobby Soul, incontrastato profeta italiano del funk, invece l'altro è il leader di un gruppo il cui nome è The Unbelievable. Qui si presentano come Space Bobby e Madame X, il brano è The Unbelievable. They believe me. try till I was almost Ditemi voi come si fa a fissare l'incontro con i professori il sabato mattina. Ditemi, forza! Che testa bisogna avere il sabato mattina? Allora, cosa l'ho iscritta a fare il figlio ad una scuola privata se poi non le evita nemmeno le rotture di scatole tipo questa? Il sabato mattina, alle 11 di mattina, con tutte le sue amiche già belle prenotate dall'estetista e dal parrucchiere. A lei le tocca andare dai professori a colloquio. Teba, la figlia più piccola, 6 anni, in confronto non le causa nessunissima rottura. Oggi, per dire, esce da danza a mezzogiorno meno un quarto con la Filippina pronta fuori che l'aspetta e poi la riporta a casa e la piazza davanti al mega schermo surround. Professori che poi, frustrati come sono, poveretti, cosa vuoi che abbiano da raccontare? Gente che un lavoro serio non ha neanche idea di che cosa vuol dire, di come bisogna darsi da fare per avere quel minimo di quattrini necessari, che è incredibile quanti ce ne vogliono per una vita, cosa dico, normale, ma anche solo appena dignitosa. Figurarsi che perfino la Filippina Fico guadagna più di uno di quei professorini appena arrivati a ruolo. Questo era l'incipit di Venere in topless di Michele Governatori. Blast in Carolina da parte degli Helvetia e prima ancora Lazy Suicide da parte dei Megaphone, Stati Uniti, quindi in entrambi i casi. Mentre vi voglio lasciare come ultima novità della settimana con un artista che, pur magari in alcuni suoi aspetti sembrando statunitense, è francese, francese a tutti gli effetti. Arriva dall'Île de France, si chiama Don Cavalli ed esce in questi giorni con un album Cryland. O dovrei dire Don Cavalli, beh, comunque. In playlist è scritto Don Cavalli. New Hollywood Babylon è il titolo del brano che vi state per ascoltare. Vi voglio ricordare anche per il weekend che sta per arrivare giulia@radiorockfm.com. Le vostre parole devono essere parte di questa trasmissione. I'm going to Hollywood Babylon. Action. Going to get me some. Watch my name, y'all, on the screen. And always, I be and I win. Red carpet, cocktails, Cadillac cars, put your girls. Candy, stains of ice cream. When I talk, violins, and they do something like this. Now put your hands up, y'all. Here I am. Hang him high. Shoot them. One bullet. Kill them all. The enemies of the Hollywood Babylon law. Gangsters. Indians. Rastas. Reds. Arabians. Fox, Japanese, Mexicans, Chinese. Put your hands up, y'all. Here I am. Hang 'em high, shoot 'em. One bullet, kill 'em all. Enemies of a Hollywood Babylon. I'm going to Hollywood Babylon. God to get me some. It's more fun, y'all, on the screen. 'Cause always, at the end I win. And it does something like this. Yes, it does something like this. No one will ever forget that night and what it meant for this country. But I will never forget the man and what he meant to me. The sooner the better. I am this. greatly lost. Houses swallowed by the earth, windows thick with frost. And I reach deep down within, but the pathways twist and turn, and there's no light anywhere, and nothing left to burn. And I am this great, unstable mass of blood and foam, and no emotion that's worth having call my heart its home. My heart's an autoclave. My heart's an autoclave. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 20, volume numero 5, indice, Kid Harpoon, Alleluia the Hills, Bix assieme a Jonesy dei Sigur Rós, 13 Ghosts, Collections of Colonies of Bees, These United States, Space Bobby and Madame X, Megaphone, Helvetia, Don Cavalli, The Mountain Goats. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.